la Tolini. Cos'è? A 8 e 16 è la batteria, 8 volte 16. Ed è scarica. E potrebbe funzionare. E a 9 volte quella dovrebbe essere, capito, per essere carica. Non è agli altri. Ma non lo so dove le ho messe, boh. Magari lo tiene un po' basso, Giabba, lo stesso. E domani la prendi lì al tabacchino. So già, aperto pure oggi. Già lo so, aspetta, dai, che la cerco. Perché già ne ho di quelle batterie. Capa. Capo di batterie ogni tanto. Rompono. Antonio, eccomi qua, prova. Guarda, lo fa lo stesso Natale, ma non è che il suo coso va a capo, in cielo che sta rompendo, no? Aspetta, mi ha finito, aumenti il volume, non lo fa più. Adesso non lo sta facendo, guarda. Hola. Allora lascialo alto. Se non li metti la massa, magari è un problema di massa. No, è basso adesso, non è alto. Adesso è a 2, mi pare. Giappa, è strano però che faccia così, perché il mio lo metto a manetta e non fa niente. E cosa vuoi che ti dica? Guarda, non c'è problema di massa. Prova quando è, prova a toccare qualcosa nella carcassa, a ver se te lo fa o nello spinotto. Se è così ha problemi di massa. Aspetta che provo sull'altro, se lo fa. Prova a vedere. Le stazionarie a posto sono. Guarda, lo fa? Assolutamente no. E nell'altro lo fa, in questo no. Ah sì, a manetta sì. A manetta sono così, guarda, 1, 2, 3. Assolutamente non fa niente. Ma che bella, che cosa no? Allora non è compatibile con quel baracchino, cosa vuoi ti dica? Con questo, col Superstar, sta funzionando bene. A valla che attacca di no, cosa vuoi ti dica? E allora lascialo lì. E per forza funziona bene. Pure il mio a 97 funziona che una meraviglia quando è così. Ma c'è Eva, guarda, che ti ha fatto un'Eva stamane, mamma mia! E fine minira, che macello. Vabbè, adesso gli metto la batteria dentro, perché fuori la batteria mi... ho fatto uscire il filo fuori per poterla misurare tutto. È fatto bene, bisogna sempre guardare la batteria. Io l'ho cambiata in quello là perché era completamente scarica. Ma l'attendo un pochettino. Adesso è dentro la batteria, va. Oh Natalia, eccomi. Hola. No, appena di meno. Hola. 2, 3, prova radio, già bastano così, a voglia. Ora 10 watt, a voglia che baciane. 1, 3, prova. Ok, ho chiuso lo spinotto e messo la batteria dentro, bene va. Capo, va benissimo, 1100 Natali, questo è. È una radio bestiale, c'ha, cioè, bella. Capo, poi lo tengo bene, lo tengo. Capo, adesso me l'ho regolato, uscita 10 watt, basta, ne avanzano. Tanto già siamo vicini, quindi non c'è problema. Sto facendo andare perché ieri ha fatto un po' il birichino, ma già ho capito che cosa era poi. E K. Dici se Destermani ne ha giù due e più uno minori. Dester, io me l'ho dovuto comprare, perché chi ci va via non funzionava nulla. Perché dovevo misurare. Devo misurare la corrente, devo misurare. E allora me lo sono comprato da Cinciullino. Ma funziona bene però, eh. Ehi K, io... Allora, io non l'ho comprato da Cinciullino, però è di lusso. Ne ho due digitali e uno con la lancetta. Capito? Piccolino quello con la lancetta, eh. Ma io ne ho preso uno grande, ne ho preso. Dai cinesi e c'ho tutto, e c'è anche quello per misurare la massa a terra, c'è tutto gli ampere, tutto misura. E vabbè, poi l'avevo provato con un altro alimentatore e mi ho misurato questo per questi qua, per regolarli, perché sennò era in uno, c'era poca tensione, c'era, sto guardando, ecco qua. L'ho provato. K, questo forte si sente. Una meraviglia, Natalie. E sono contento, ormai come mi ha giocato due mesi. Questo è nuovo, in scatola era. Capito? Era in scatola questo qui. Cazzino che... Ecco qua, fatto. Ah, vabbè, va pure rugoso, va a farvi già senza duccarlo. Me, vabbè. Anda bene mera, beh. Va tu. Ne ho altre due di batterie, se ci vogliono magari. Ecco qua, mettiamo qua. Oh signor, fatto. Almeno siamo tranquilli. Ola, già si vede la lancetta che si muove quando parlo, capito? Adesso è a metà, non è a manetta. No, va benissimo, ma neanche io lo sto toccando adesso. Capo, mi hanno fatto a posto di una cosa che... Mi hanno fatto un 747 che è una bestia, spinge un be. Buono, l'ho provato ieri, cavolo. Vabbè, ma io di quelle cose non ne posso avere, Antu. Non ne posso avere perché sennò è un macello, Che già... Adesso non lo so se sto disturbando ancora qua, capito, non lo so se sto disturbando, e quindi sto vedendo un po' se non disturbo come ho girato l'antenna, può darsi che non disturbo, e allora tiriamo avanti così, vediamo un po'. Anda bene Meda. Cosa hai fatto Natalì? Ma l'hai tirata su o l'hai girata come? No, ho girato il tubo, siccome ho messo quell'antenna piccolina per il ricevitore, no? Ed è bassa quella. Però, per per metterla in mezzo alla strada praticamente ho dovuto girare il tubo dell'antenna, quindi anche l'antenna si è girata e non è venuto nessuno a dire che stavo disturbando. E infatti stavo parlando quei giorni, non hai visto, e non è giunto nessuno, però se non disturbo più non mi pare vero, almeno perché a disturbare è un macello. Ma niente di strano, Natali, magari, come si dice, niente di strano che, cioè, come l'hai girata, magari non punta più radiale, e quello è un piano di massa, mi. E magari non gli dà più fastidio, niente di strano che sia successo anche quello. Mi. E quello che sto pensando io è quello che sto pensando io, perché io ho girato l'antenna per mettere dritta l'antenna praticamente, quella piccolina, no? Allora già va bene, se non ti rompono più le palle va benissimo. No, io con questa ringo non ho mai disturbato a nessuno, perlomeno, non ho mai aiutato nessuno in occhi. Poi ho provato con la mia ad alta potenza, no? Non disturba nessuno, la verità. Ho provato pure col mio televisore, con l'antenna di Graziada. Ma c'è, cioè, proprio un ben, niente, non disturba. Ehi, sono contento per te, tanto quella radiali non ne ha. Invece la mia ce li ha i radiali, ma la sorte ed è bassa. Vabbè, se non disturbo non mi fa altro che piacere, guarda. Ma ti do rapunia a faeva, so che fai denti, gioco, so che la massa che ne è varia. E infatti, il tempo del cavolo proprio, dovevo uscire per vedere se potevo mettere in moto la macchina, che domani devo pigliarla, ma vabbè, già fonerà in moto, la giubbuca in moto la sera lì e poi si è molto tranquilla. Vabbè, anda bene Meda, Antu, sono contento, vabbè, attaccata al Superstar, vabbè. Vabbè, va bene sì, Natali, ti stavo dicendo, vabbè, io sono con poco così, era il mio cane in campagna, era più libero, però vedi che ci rompi il cartone, e già sappiamo la storia. E infatti meglio evitare, Antu, meglio evitare. Affittiamo. Ma avrai sempre o te l'hai venduta? Cosa? La casa in campagna. No, ce l'ho sempre. E ci ho messo le canne da pesca, in quella casa, la roba per caricare le cartucce, tutto lì c'ho. Però non ci stavo più andando, c'ero sempre da uno sferare all'altro. Cazzo, ah, va, devo durrà, mi devo far fare l'impegnativa dal medico e poi chiamare al CUPU per l'altra operazione. Devo operarmi all'ernia, a chi come ti mi ne beso, mi ne cirernia, e allora c'ho il cinturino per non uscirne. Se mi stavo sedendo in macchina con un amico e mi stavo accompagnando e me ne è uscita così senza nessuno sforzo né niente, evidentemente la ferita c'era già. Sicuramente sì, più che sicuro che sia così, Natali. Vabbè, vedo un po'. Chiappa. Cosa, cioè, ti volevo dire? Cosa fai? La lasci così, parapano, o te la vendi? Cosa fai? O la lasci così? No, per il momento la lascio così. Adesso, come fa un po' di bel tempo, devo salire a mettere le zanzariere, no? Così lascio le finestre aperte, perché già ci sono le zanzariere, però sopra quelle metto quelle che ho comprato, che sono più forti, così gli animali non le possono intaccare, capito? Cappa, ma ti può pagare qualcosa per quella casa o i Gucci? Va bene così com'è? Ehi, già va bene così com'è, non mi fanno pagare niente perché è la mia, cosa cazzo, se no casino attenti ti ricordo pure a tutti, se non attenti noi c'è la burla di Gabbo, a tuo così, ne vuoi vedere gente bugetti. Ciao, vabbè, certo che su sarebbe stato più bene, la verità. Eh, bisticciare qua, perché dopo io mi conosco, se mi salgono i nervi è quella la canzone. Io devo stare calmo, non mi devo incazzare, per questa cosa dell'antenna che disturbavo sono finito all'ospedale, hai visto? Aggiumai mugu. Vabbè, la che mole a pizzi, Natali, per carità. Oioia. Da voi va, non da voi va. Ma ne va t'arrabbiare e bacia. E te stavo dicendo, capolo, il vento che ha fatto, quando è ieri è successo? Una tromba d'aria era, te ne sei accorto? Oh, qua se c'ho le finestre chiuse non si sente nulla. Non ha inteso manco i droni di temporale. Mia moglie mi ha detto che aveva fatto il temporale. Ah, qui era tutto chiuso e non ho sentito nulla, l'ha giudito. Ah, cosa giù alle punti, dice, a volte le dice che l'hai fasciato tutto. È passato lì, è passato proprio forte forte. Cazzo, certo che a me una volta una tromba d'aria, lo so cosa mi ha fatto. Mi ha tirato un'antenna, gatto, Maria Sigadda, Lubaru, Curuseghetto, Maria Dagliato. Me ne l'ho trovata appoggiata sul tetto. E quando è successo questo? Anni fa che era passata una tromba d'aria in campagna, Maria Dagliata, Sighetto, Rubaro. Manco Mari erano i diranti, sennò l'antenna me l'aveva fatta, i mille bici. Mara era cosa, quando passa chi ci faccia tutto. Dice che l'ha fatto un danno, chi s'antenna manna a me, verrà è di cugliata, verrà. Bisogna stare attenti con questi cavolo di cose. Quelle antenne sono pericolose. E una volta la Delta Loop gli ha troncato la tromba d'aria a Marco, quello che c'è prima di salire per andare a casa mia in campagna. Quello lì, Marco Scorpio, cazzo i pompieri ha dovuto chiamare in 30 di notte. Ma giù che io. Egare, buongiorno. E chi è questo con lecca? Ma cazzo di Franco. Cazzo, tutto leccato sì, oggi. Buongiorno Fra. Oggi sei 9:30, da Natalia non lo so, ma dovrete essere offeso. No, oh, non ti ascolto, mi stai rompendo tutto qua. Mi ti posso pagare o smettermi, bello bene. Cosa vuoi, che ti faccia schiattare? Non dici Fra. C'è mai quello di Polo Franco. Qua arriva quasi 9:30, arriva. Io ho poca potenza, sto andando piano proprio. Cappa, penso che anche Natalino non abbia tanto. Questo è omologato, non ha manco i canali, non l'ho aperto per niente, questo è omologato, documento uscito dalla fabbrica è 4 watt. Ma cos'è? Melegatto o tapparetta? E questo è un superstar melegatto, perché cosa vuoi che ti faccia schiattare pure a te, spalliero? Buocuomane. Ehi, no, il mio è melegatto, più c'è anche i frutti canditi, capito? Perché è colto, il 3009 che ho io. Quindi è superiore a quello. C'hai i frutti canditi, tu hai senza frutti canditi. Io sono povero, cosa ci posso fare? Poi questo qui non lo apro perché lo voglio lasciare omologato, non si sa mai. Ehi, lascialo stare così e già va bene. Buongiorno a tutti e buona domenica, anche se bella non è. Ne rivedo una passata leva che non vi dico, che il cielo qua a Carbonazzi che è nero, pidico. E già la giuvizio già. Grazie, c'era il video di fuoco poco fa, che stava staccando la lamiera del cornicione. Dice sali la stacca, sta l'ultima mani già male. Sali che la staccava, no, qua c'è un bruppino. Sta piovendo, c'è vento a portare ai cebidami, perché non ci sale nessuno, hanno tutti paura, capito? Siccome le chiavi non ce le ha nessuno, ce le ho solo io. E allora, io non ci salgo, quindi hanno chiamato il vigile del fuoco, hanno messo l'autoscala e ne hanno staccato, bravi, così mi piace. Cosa vi duca, lo stipendio non vedrai, E io già la sa, a troncarmi lo godo sopra, non ve la trado io, no. Ma che vicino io sono la sala, per salire sul tetto, per passare la mia sala, io, capito? Non ci sale nessuno. Poi c'è a fianco al cornicione, già l'ha visto Luca, dove sono le antenne, quindi se vuole Yosho giocasse dove? Non chiamate il vigile del fuoco. Hanno preso la cesoia, l'hanno tagliata. Ma va, si arrangiali. Se la vogliono mettere nuova, la mettono nuova, e se no, io non ci salgo. Se fosse stata d'estate, è tempo bello, mai bagnato, si scivola, mamma così. Visto che l'hanno fatto, perché sono staccati i tasselli, capito? Sono i battigrondaie, no? In lamiera, capito? E quindi sono staccati i tasselli col vento, i tassellini che ci sono, e quindi ballava tutta la notte, bum bum bum bum bum bum, e gli tiravi bassa, l'hanno fatto, va bene così. Cappa di rosmetro, un barriata re da deva nel rivende, io ancora il cane addormentato, cazzo, non si scelda manco a misericordia che c'è un macco di gardena. Ma chi c'è anche il Franco Cuoco, ma lo sai che dalla 68 va sempre bene, meglio del 48 va, meno colpi prende, ti ricordi che ce l'avevamo tutte e due, va bene Fra, compralo, compralo, già va bene. Dai ragazzuoli, vedo se riesco a portare il cane, io se riesco a svegliarlo, se non mi muscigheggia, già ci sentiamo dopo intanto, non si può fare nulla, bisogna rimanere a casa. A dopo, ciao. Mica siamo in zona arancione, miucci. Adesso non mi ricordo le restrizioni che ci sono per la zona arancione, boh. Ah, si può uscire, Natalia. A noi non ci hanno rinchiuso, chi hanno rinchiuso sono i bar e i ristoranti di nuovo. Perché mia figlia doveva aprire stamattina, ieri hanno lavorato benissimo, doveva aprire invece, nuda, è arrivato un poco di roba a casa, allora, per carità, lasciamo perdere, dai. Avanti Antonio, riprendi, fai girare, ci sentiamo dopo. Capa, ma una bigliata a Baruguru mi pare, sinceramente parlando. No, non mi è chiara la cosa, dicano quello che vogliono, ma non mi è chiara. Non è per niente chiaro, tu, perché se chiudi le attività, a noi ci chiudi a casa. Invece la gente è tutta in giro e le attività chiuse. Ma di cosa stiamo parlando? Guarda, non ci voglio tornare nel discorso, perché già ieri, quando l'ho saputo, sono diventato nero. Ma nero, più nero del carbone, capito? Miserabili bastardi che non sono altri. Mi pare che avevano un conflitto, a me mi pare che avevano un conflitto di partiti, beh, devono fare la guerra al presidente della regione, a me mi pare che sia qualcosa del genere, sia. Perché lui dichiara che non sono così dati, assolutamente. Che cosa di strano, beh. Ma che non si ammazzano. Io sto pensando alla figlia di Claudio, poverina, a tutti i commercianti che sono in queste condizioni. Ma come si fa, cazzo, l'economia va a farsi forte, anzi è già andata a farsi forte. Poveri ragazzi, boh, dove andremo a finire? Dico solo, Natalia, che se continua così già tre volte, manco a fine anno arrivi l'aria, perché sta solo pagando, non sta portando niente a casa, quindi ti ho detto tutto, capito? Ti ho detto tutto. E io rusogo io come te, io rusogo che rusogo sta di mezzo, Gesù Cristo mio, se ti danca nella attività è così, è un casotto, è un casotto, boh. Poi almeno li avessero pagati questa gente, i risarcimenti di quello che non hanno incassato, perché li stanno mettendo nei guai a questa povera gente. Boh. Hanno voluto mettere tutto il bilancio, tutti i libri contabili del 2020, non ha preso ancora una lira, cazzo, non ha preso neanche una lira, se lo di una lira, ecco preso. Però le spese ci sono tutti i santi giorni, acqua, luce, frighe devono rimanere accesi, capito? Dipendenti, affitto, ti rivari a un raio, rivari, è una bomba, le bombe, in capo. Cazzo, non mi che sono ragazzi giovani, ma è un bel futuro, dove cazzo lo vogliono fare? Certo. Fate il futuro, fate la famiglia, fate questo e quest'altro. Ma che non fa ammazzare, ognuno quanto viene. Ma perché non vi sparate? Cazzo, non vedi che siete tutti che siete pagliacci, ma che futuro fanno uno? Dimmi che futuro fanno. Cioè, se devo usare non mi fai finire con già bici, ma una cacata del genere, che poi c'è di tutti i fauraggi, siete, c'è di bestie di mezzo, fauraggi e delinquenti pure siete, perché mamma mia, mi vado a incazzare queste cose. E c'è poco da incazzarsi, Antonio, c'è poco da incazzarsi. E così come la tantalina e basta, capito? Stanno pensando alla loro tasca, c'è un conflitto di interesse tra partiti, tra politici e un magna magna generale, perché non può essere una cosa del genere. Succede la guerra, eh? A Predaniera è già nato un consorzio di ristoratori e baristi che sono pronti a fare la guerra, eh? A fare la guerra. Giulia, non succede a Magla. Se si rivolta il popolo succede la guerra civile, io non lo volevo dire, però è così. Natalì l'hanno già dichiarato, i più grossi ristoratori di Sassi hanno già dichiarato guerra, quindi Vigio Gavisendi hanno già dichiarato guerra, perché non si può andare avanti così, capito? Quindi o ci metti tutti a casa e fai lockdown totale per tutti, non che mi chiudi i cazzi bar, i ristoranti, le attività commerciali e la gente sta in giro sino alle 10 di sera, ma di cosa siamo a vederli? Ma quando cazzo ne usciamo? Non ne usciamo più. Sono dei delinquenti e basta, buoni rinchiusi, 30 in carriera, buoni borse, perché non è possibile il futuro, ma che futuro? Ma che no, guarda, secondo me bisogna niente bagarda in Kiwi per fare più Covid possibile, perché è vero, ci sono questi pagati, devono risultare più così possibile per pigliare tangente, per prendere tangente, ma che vuoi pigliare in giro? Ma che vuoi pigliare in giro? Ma dai, ma su, ma finiamola! Anto, 40 anni, 41 anni di lavoro mi ho giocato io per mia figlia, hai capito? 41 anni di lavoro e ancora non ho visto una lira. Lascia perdere, non ci voglio entrare in questo discorso. Ci sentiamo dopo. A portare il cane qua, va. Dopo già ci sentiamo, via. Cura a noi. Il primo che non si rivuceggia a Boburu, a chi si rivuceggia a Boburu, ci ammazziamo bari bari. No, non esiste, che quel pupazzo li può fare la guerra, può fare le sue guerre del capo e basta. Strano che in certe città dove dovrebbe essere proprio la situazione, strano che in certe città ha fatto una parte l'ha fatta rossa e una parte l'ha fatta di nostro gurore, cioè non ti sembra strano che proprio in città è difficile da gestire? È un macello, è anche un macello, che ne comprendi, è buono. È una bigliata a Baruguru, perché c'è lui dice, allora, il governatore della Sardegna dice non è così, ed invece vuole fare il dove. Io capisco che bisogna salvaguardare la salute del popolo, però qua siamo a punti brutti, perché se si rivolge al popolo, Nania Giuedi, se si rivolge già... E mi è scappato il coso del microfono, Antu. Mi è scappato. Se si rivolta il popolo, ci ammazziamo bari bari, a chi succede la guerra civile, vedrai tu. Già, non hai inteso cosa ha detto Glavio, che gli hanno fatto già un consorzio. Oia! Perché questi bisogna andare a Roma e prenderli a calci in culo e buttarli fuori dal Parlamento, questa gente. Ma stiamo scherzando, ma fai vivere le persone tranquille, non sa con chi ci conflitti, con chi ci cose. C'ho tutti i ragazzini, c'è tutta gente che vuole realizzare nella vita, vuole realizzare qualcosa, vuole realizzare. Cioè, come lo siete stati voi da prima, adesso c'è la nuova generazione che vuole andare avanti. Cioè, siamo arrivati al 2021 con queste cagate. Ma dove si vogliamo andare? Ma dai, ma dove vogliamo andare? Ma dove? Ma dove però? E la gente non si può sposare in queste situazioni, non si può sistemare, non può fare nulla. A chi siamo nei riguai, guru, travaglio, si dai gente non travaglia, noi pendi. Ed è un casino. Mi serve invece avere pensato i signori testa di capolo avrebbero pensato di andare a guardare la gente che non paga i contributi all'operaio. Se viene pensato a ghiccio, viene pensato, che è una cosa grave. Cazzo, la metà di chi lavora non ha contributi, non ha. Voglio vedere, cioè uno schifo. Se vuoi lavare, se vuoi mangiare, se vuoi lavorare così, se no te la in quel posto te la prendi. Quello avrebbero dovuto controllare, ebbene pure. E piglia i signori principali che si soffende tanto bene da sopra le spalle degli altri, dirgli vieni qua, vieni. Che non ripaghi i contributi ai operai e punirli forte. Ogni giorno rompere le scatole, quello avrebbero dovuto controllare, perché la metà della gente non ha assicurazione, non ha futuro. Prenderà una pensione sociale di merda per colpa di questi, di chi si ingrassano i ragganna. Sì, già è così, anzi, già è così. E poi no, quello sarebbe niente. E tutta la burocrazia che bisogna eliminare. Questi soldi dell'Europa che devono arrivare. Lo sai che se non tolgono via tutta questa burocrazia non avanza nulla quando arrivini. Ma forse sono sempre senza di là. A che è un casino lo Stato. Bisogna riformare tutto. Oi, oi, cura a noi, che casino. Oh yeah. Ma cosa, andato se n'era Franco? Franco, ci sì. Gli diremmo di no. Cazzo di no, gliela abbiamo buona io. Questa merda di biglietti maruguro, no, questa merda di Covid. Di prese per il fondelle. Sì, ma guai, no. No, che vivo la rivoluzione e tacca di Lugabba che c'ha niente, perché no, non esiste. Ma come si fa? Ma come si fa? Gente che vuole un futuro non ce l'ha. Cioè anche la gente diventando pezzente, sta diventando più pezzente che mai. Oh, veramente incredibile qua. Ma dai cazzo, già non bisogna di na. In più li stai rovinando, perché li stai rovinando, li stai ammazzando quei poveracci. Ah, perché non si vergognano? Perché non si vergognano che fanno prima? Allora io dico una cosa, prima non erano studiati e avevano la testa più a posto di quelli studiati di adesso, che li avrei presi tutti a calci in culo, perché non capiscono un H, non capiscono. Italiano ormai in Europa, ma non li prendete a calci in culo, riprende l'azienda italiana a valorizzare il marchio italiano come era una volta, come era 30 anni fa, e a lavorare tutti, cosa? Ma riprendiamo a calci in culo che sta venendo la mondezza dall'altra parte e noi siamo senza lavoro e senza niente, ma chi non vi andete? Buongiorno, bei discorsi da mattina di domenica. Buongiorno anche a lei. Sì, ciao, Marco Scorsi. Perché Antu, mi sento già belli per pazzi. Ma questo è il loro percorso, è la loro strategia. Saranno alla grande, è bellissimo. Loro vogliono assolutamente la distruzione dell'imprenditoria, assolutamente la distruzione dell'economia, delle aziende, dei privati. Vogliono assolutamente che ci sia il dominio assoluto e il controllo del popolo. Ma il controllo del popolo non quello che la gente pensava, per certi versi giusto magari, di una divisione equa di reddito, eccetera. No, il controllo del popolo nel senso di diventare tutti schiavi. E si stanno organizzando la concorrenza a casa, come? Importando tutta questa gente che ha bisogno di lavorare e non fa concorrenza, perché un altro dipendente c'ha l'INPS, ci sono il negoziante deve pagare tasse, pagare un sacco di contributi, cioè se ti dessero in busta paga quello che ti trattengono, avresti 3.000 euro in busta paga, invece no, ce ne mangiano la metà, ammazzano l'impresa e i soldi se li prendono, perché cosa? Per i loro le loro operazioni, i loro stipendi, i loro bonus, le loro, vedi che loro vanno in pensione quando gli fa comodo, non è come noi, io ho fatto 40 anni, sono 41 anni che sto lavorando e non posso andare ancora in pensione. Così è, cari signori, pensateci bene quando andate a votare, alle finte bandiere colorate, ai finti pensieri di equità e di democrazia, così come ci hanno fatto credere quella banda di gaglioffi. Chiedo da dice no, niente scorte, io vado in giro con i mezzi pubblici, c'è la fila di scorte più lunga in assoluto che abbiano mai fatto, la più lunga in assoluto, niente scorte, tutta gente che costa fior di denari, di tasse, di malasorte che poi paghiamo noi. Vabbè, buona domenica, non incazzatevi. Ciao Marco. Buona domenica Marco, ma sei vicino a casa, sei a fondo scala oggi. Sto scendendo il pulito, ciao Natalie, sto scendendo il pulito, sono in macchina. Scendendo in deposito, hanno distrutto tutto, poi continuano a raccontare questa coglionata dell'evasione fiscale, ma vai ammazzati tu l'evasione fiscale, se ci fosse evasione fiscale significa che la gente, gli imprenditori stanno guadagnando, ok? Allora se stanno guadagnando, ma com'è possibile che sono chiuse il 40% delle aziende in Italia? Sono chiuse e i dati che vi danno sono balle, perché io nel mio settore, che ci lavoro non so neanche quante generazioni sono, perché dal 1800 che la mia famiglia si occupa di quello che io faccio come lavoro, ho visto chiudere centinaia e centinaia e centinaia di aziende. Noi eravamo il fior fiore dell'industria italiana nel mondo, da tutto il mondo venivano a comprare i nostri prodotti, da tutto il mondo, tutte chiuse, tutte le industrie in Toscana le hanno fatte chiudere, tutte le industrie in Pesarese le hanno fatte chiudere, tutte le industrie in Veneto sono pressoché chiuse e quelle in Brianza altrettanto. Abbiamo un 30-40% delle industrie che avevamo sino a 20 anni fa. E perché? Perché con la pressione fiscale, con tutte le malassorti, con tutte le cose che si hanno inventato, non vedi che ce n'è, ogni giorno ce n'è una, ne inventano una per rubarti i soldi, ti raccontano che ti danno 5 euro e con l'altra mano te ne prendono 10. È così signori, va bene, antenna Natalino, col buongiorno e una buona domenica a tutti, pensiamo positivo. Se continua così altro che positivo è. Non sai cosa succede Natali, che questi non hanno contato una cosa, che l'economia si regge, i soldi che loro amministrano si reggevano sui volumi di pressione fiscale che davano alle attività commerciali. Ora, con le attività commerciali che erano già ridotte al lastrico già da un po' di anni, e adesso con questa pandemia, con proprio i fatturati a zero, non ci sono più gettiti, cioè le aziende non stanno versando più niente, non versano più nulla. Perciò lo sai che cosa succederà? La rivoluzione, perché sicuramente si arriverà un giorno, perché intanto è una ruota che gira, che non ci saranno più i soldi per pagare gli stipendi agli insegnanti, gli stipendi ai dipendenti comunali, e non ci saranno neanche più soldi neanche a prendere loro, perché loro sicuramente saranno i primi a prenderlo, perché come vedi tutti stanno soffrendo, loro non soffrono niente, perché hai mai sentito che qualcuno di loro abbia detto, beh c'è la nazione così, allora i nostri stipendi da 20.000 euro, non da 2.000 euro, da 20.000 euro verranno ridotti? No, niente, loro continuano a ingozzarsi, a mangiare bere, caviale, champagne, alla grande, a ridere, belli grassi e belli colorati. E no, raccontandoci democrazia, le parlano poi di questa cosa della tutti bene, per il bene del popolo, sì, eccolo qua il bene del popolo. Fuggirà da capo per la voluta. Vai Natali. E speriamo che non ne succeda, perché se succede quello lì, insomma, siamo bari bari. Già ci stanno mettendo d'accordo per fare la rivoluzione, non hai sentito a Claudio cosa ha detto? No, ho acceso da pochi minuti, ho sentito Antonio che si lamentava, è un altro passaggio, perché c'è anche lui. Ciao Claudio, buongiorno. No, non c'è, è andato a portare il cane Marco. E stava dicendo che a Predanica tutti i ristoratori, i baristi e ballevari hanno fatto un consorzio e voleva guerra a velo. Speriamo che non ne succeda mai, perché se succede la guerra civile ci ammazziamo pari bari. Ohia. E io sono vivo per miracolo, tanto per cambiare. Natali, arriva a un certo punto che anche la gente per bene poi diventa cattiva, c'è poco da fare, perché quando non c'è più soldi, non c'è più da fare la spesa, e tu sei una persona per bene e c'è bisogno, poi in qualche modo devi dare da mangiare, e allora ecco che viene la rivoluzione. Così porta. Comunque per certi versi un po' forse ci sta bene, perché comunque continuano a credere a questi, a alcuni pagliacci che fanno lì e raccontano e fomentano al popolo pensando di dire, di fare come per il bene del popolo, il popolo qui, il popolo e il popolo di cosa, e il popolo poi finisce sempre che loro si ingozzano, si colano il poltrone, si prendono il megadilli e poi del popolo non gliene fotte niente. Questa è la realtà delle cose, perché se ci fossero stati veramente la volontà di fare del bene al popolo, questi si sarebbero riuniti. Ma avete mai sentito qualcuno in tutti questi talk show che ci sono ogni giorno dire di destra, di sinistra, destra, centro-sinistra e tutti questo pianto di partiti, dire riuniamoci per trovare la soluzione, proviamo a trovare insieme tutti voi, tutti noi, cerchiamo, non fanno altro, se gli occhi loro si è dimesso e quell'altra parte è passata all'altra parte di casa, cioè capito, una presa per il culo. Infatti, è proprio una presa per il sedere, ma io non so dove andremo a finire, se continua così, boh. Amica da Maruguruci, cioè, ma stiamo scherzando, siamo. Boh. Ah, sei arrivato Marco. Sono arrivato. Poi la cosa che è il problema è che la gente non sa, ad esempio, non so se avete visto, quante attività sono sorte in questi ultimi 5 anni, 5-10 anni, aziende che sono straniere. Ma sapete perché ci sono queste aziende straniere? No, ve lo dico io, perché lo Stato gli permette per 5 anni di non pagare le tasse. Allora io ti chiedo, se io che sono stressato al 70% perché un imprenditore, un alimentare, una panetteria o frutta e verdura paga le tasse al 70%, ma come fa a contrattare un altro che non paga neanche un centesimo di tassa? È impossibile. Allora il tuo sinistra che chi ci governa sta facendo gli interessi di chi viene da fuori e semplice per distruggere la nostra economia. Così abbassiamo assolutamente il livello di reddito di tutti e sarà più facile controllare la massa, controllare il popolo, controllare tutto. Guarda la chiesa che ci sono i cinesi, guarda la chiesa che ma non perché ce l'ho, io non ce l'ho con nessuno, ognuno deve fare il suo lavoro, ma devi mettere nella stessa condizione degli altri. Se io devo pagare su 100 euro, devo pagare 70 euro di tasse, le devi far pagare anche gli altri, perché solamente così è equo. Non puoi pensare che le paghi solo io le tasse e io mi devo cavare anche le tasse, ma ti metto Montesa e tutte le altre cose sulle altre attività che non sono, che non pagano le tasse come devo pagare io, perché devo pagare per gli altri. No, perché queste cose non erano mai organizzate, non si sa, la gente non lo sa, questi non pagano tasse, così come i grandi colossi di Internet, Amazon, eBay, tutti questi qui, non pagano tasse, commercializzano in Italia e non pagano le tasse, e valendo miliardi di euro, però a noi invece ci fanno pagare, poi capitato, se butti la butta della moneta, invece di essere leggermente trasparente, leggermente più grigia, al 400 euro, capito? La facciamo per bene, che è andata a cassoletta a buttarla, capito? Perché non sappiamo più come fare, e allora dobbiamo assolutamente vivere in questo mondo, mi raccomando, i cartelli 30 km orari, perché se ti trovo a 37 come ti trovo a me, le copie sono patente e la trazione. Così dobbiamo, ci stanno facendo col cagnolino, con la forca, come ti muovi, spara un colpo. Franco, per me, ce la risentiamo dopo che devo andare a fare una cosettina, ok? Sono rientrato, buongiorno, come a tutti. Ciao, bravo, buongiorno. Ciao, in giro la mattina presto, sì. Il dato di fatto è quello e basta, non c'è niente da fare. C'è un conflitto di interesse tra politica e tra politici e basta. Perché è assurdo che diano altri 15 giorni di chiusura ai bar e la gente tutta in giro facendosi i fatti suoi. Chiudici tutti a casa e vedrai che il problema lo risolvi. Questa cosa è quella presa per il culo che hanno fatto di chiuso per sempre. Io non so se qualcuno di voi ha avuto mai l'opportunità di andare, non so, di viaggiare e vedere cosa succede. Nelle stazioni di treno, nelle grandi città dove ovviamente c'è un grande afflusso di gente, ci sono le stazioni e le stazioni che sono colme di gente, perché la mattina, tutti i giorni, ovviamente la gente deve andare a lavorare. Con i treni, con i pullman e con la metropolitana. mando la roba laggiù dalle punti alla via Cazzo. Va bene Marco, non c'è niente da aggiungere, guarda, ti dico solo che c'è la disperazione totale, perché lo sai, l'aria c'è, vai via Roma, amore via Roma, e quindi, capito, ed è un casino, inizia a lavorare e poi chiude, inizia a lavorare e poi chiude, inizia a lavorare e poi chiude, mi sono rotto veramente le palle, ciao, buona giornata. Io sono qua, ciao. Ciao Marco, buon tutto, alle prusse. Ciao Tattaliccia, io sono qua io. Manco che ne va a vedere, vai, non sono di gaga. Infatti, via, cura a noi. Bene, sta uscendo questo MB più 4, qua. Che l'ho messo qua, perché di là mi fa un rientro, boh. Benissimo Natali. Benissimo, quella è una bella radio, ce l'ho anche io, guarda, io se chiudo tutto, se elimino il colt, che praticamente basta chiudere, far l'ascolta e ecco, riceve anche l'MBP5, mentre gli altri invece, gli altri baracchini colt sono a microfono normale, è una bella radio, 3009 è una bellissima radio. Infatti, peccato che non posso mettere né canali né potenza, nulla. Perché questa è omologata, capito? E la arrivo da Gagussi. E lasciala così. L'esperienza te l'hai già fatta anche tu, no? Ma futti di, guarda io. Io praticamente ho eliminato i K e sono sempre col baracchino, tanto. Per fare due chiacchiere va benissimo. Via Puglia. Siamo quattro gorri di grabba. È logico che va bene, poi non c'è bisogno né di potenza, nulla, 4 watt, ci sentiamo tutti qua in città. Io lo stesso, i watt della radio e basta, cosa di vita fa, attaccai a fa, ma voglia che arriviamo a tutte le parti, ci sentiamo, ma guarda tu che tempo di merda, cazzo. Ci sentiamo, sì, cavolo, a voglia va bene. Filippo scendato c'è. Sì, Filippo si è svegliato, uscito, ha fatto i suoi bisognini, qua nel mio giardinetto, tutto pulito, adesso sta passeggiando da una stanza all'altra, state sempre in mezzo alle balle, tutto il mangiare uscitati. Mentre invece dopo che mangia a luna, allora inizia a rilassarsi, se ne sta nella sua brandina, si addormenta, si fa il riposino, poi si sveglia, si alza, dopo cena, caput, dalle 7:30, rotto, si addormenta, si sveglia alle 10:30, arrasta dei gani mandroniche. Ma io ci sono così i gani, qua. Bello è Filippo. Attiramente quando mi si è attaccato all'anca. Ehi, non mi ricordo, sì. Se no la macchina, come te per lo sportello c'è dentro la macchina natalina. No, l'unico che fa entrare a casa è Massimiliano, non fa entrare più a nessuno a Natalia. Si mette nella porta, ti abbaia, ti ringhia, è un casino. È un casino, capito? E c'è Massimiliano, lo gioca, lo aspetta nelle scale, perché lui sale a piedi, lo aspetta nelle scale, come te lo vedi, lo biglia a barri barri. Lo yoga e lo va a pezzi. Paghi sue. A te lo ricordi, Filippo, mica sta arrivando Massimiliano. ancora oggi già lo cerca, quando parla al baracchino lo chiamo, mi guarda chi c'è, è Dusco d'Isola, come te dico, ma non c'è, lo sento solo ma non c'è, Pippo, mi, vieni, mio nonno, guarda chi c'è, mi, Alecci Barado, e chi è, ti, Ma cosa ti voleva fare? Voleva morsicare o voleva... o l'ha fatto così? No, non ho capito cosa voleva fare. Cazzo mi si voleva fare quel cane, non hai capito? Ah, ti vorrei montare. Allora, a degree. Mi si è attaccato all'anca, oia. E se no che andate a bere lo sportello, subito durante la macchina, quindi poi si è attaccato. Ti credi che si alza a tirare la ronga? E allora ti ama. Non lo conosce, capito, si è visto un po' di volte. Però quelli che non conosce, ad esempio non vengono quelli a portare la pizza, e salvo un volaio prima, a Giuno, a Mario, Antonio. E qua veniva sempre Antonio. E il primo periodo non lo faceva entrare, lasciava le preparavo già la bombola io fuori, capito? Invece adesso lo aspetta nell'ascensore. Lo aspetta nell'ascensore, capito? Perché l'ho fatto sedere, glielo insomma fatto capire che lui può entrare a casa. Lui, come io vado da Gianni doppio. E entro, ci gioco col cane. Capito? Ci gioco, però è stato Gianni a farglielo capire che io sono un suo amico e se no non ti vado entrare, tabaccia di Mushigheccia. Invece quando mi vede mi salta sopra, gioca, fa, gli rampo la ballina, capito, lo accarezzo, devi anche saperlo accarezzare, il cane non si accarezza mai in testa, si accarezza sempre sopra la schiena, perché se lo accarezzi in testa si gira, capito? E lo so, Guia, che si gira. Ma l'ha detto Gianni che a te ti uria Mushigheccia. No! Se ha dannato, ma non ve l'ha fatta. A tempo che non più asciugare. Ha dannato, ma non ve l'ha fatta, figliamme. Beh, prima me ne è venuto lui, tutto dopo, tutto coso. E poi ha pigliato, wow! La massa che tiene in varia. Ce l'hanno distinto i molossi così, capito? Ce l'hanno distinto, però se lo sai prendere no, non succede niente, capito? Non succede niente. Vabbè, vieni nonno, vieni, Pippo, vieni, guarda, vieni, rimani qua dentro, vieni, vieni, mi Antonio c'è, vieni, mamma mia, anche questo porta le bombole, Antonio, il tuo amico, dov'è? Dillo! A te passeggiare, mi, e chi? E Pippo. Voglio prendere la bocca la mazza te ne varia. Ora che prende la bocca, cosa vuoi fare? Amo scicati la mano. Ma non si tocca la mano mia, Molello! Tu hai detto Molello, ha detto la legge. Chi è questo signore che ti ha detto Molello? Aggredilo tu a no, non gridilo. No, ma già è bravo. La mattina è un rompipalle, sta sempre in mezzo ai piedi. La sera poi crolla e si gocca, capito? Vabbè, tu ce l'hai sempre il tuo Natalino. Eia, è poche visto, è di lusso. C'ha un'intelligenza quel cane, boh. Intelligente era il pastore tedesco, finché stava io in campagna ci montava il cancello. Il primo periodo, se non c'era Natalino non entravi. Poi ho imparato a conoscermi. Urt, allora veniva, correndo, si aggava la macchina, posso scendere? Allora scendevo. Chi c'è un cane da circo, era più fatto di vinta, era addestrato quello. Cazzo, una volta, babà, chi c'è Buccarò, Furugana, chi non l'abbia mai visto. Cazzo, poi gli ordini li davo in tedesco, sai che i bambini gli davano qualche ordine e partiva il cane. E allora era addestrato così. Cazzo. La giubilata del guinzaglio, bambi, a città che ti posso vedere se Buccarotti i gli do l'ordine, cazzo, se non lo tengo si rumagna, babbo. No, ma che io me lo ricordo che era molto intelligente, perché se non c'eri tu non è che faceva molto, e poi ho imparato a conoscerci, a me, a Franco, a Gianni, insomma quelli che venivamo lì, e quindi era buono, ma il primo periodo manco dallo sportello di Vasi Abri, capito tu? E il cane è così, una volta che marca il suo territorio è così. Io Filippo quando lo porto giù, quelli del mio palazzo, là, quello da lì, li conosce tutti, ma quelli che vede nella strada, vicino al mio cancello, vicino, li abbaia, capito? Li abbaia. E se non è a guinzaglio, di Mushigheccia. Ma che lo dovrei io, chi sei un cane da guaglia, deve fare così. E distinto agisce. Ma vento c'è. Insomma, qua c'è rado, giù c'è l'antenna che si biggia. No, adesso vento non ce n'è, però non pensate che sia passata la bufera, è sempre lì beccio. Quindi ci sarà un'altra passata di beccio forte, sicuramente, perché sta caricando acqua, capito? Ma ne sono accorto, ho visto, che mi affaccio. C'è una donna che si piega un po', quindi ho visto che, il cavolo sta tirando vento. E mai calato rispetto a stamattina presto. Però già aumenta di nuovo, perché l'imbeccio cala, poi inizia di nuovo con raffiche. In settimana c'è maestrale, dovrebbe spazzare un po', ma quando rimane così all'imbeccio, levante, ponente, sono tutti venti forti che portano acqua, capito? Non ce ne può più, no. Ma tanto bel tempo, forse me ne ho sceso un pochettino giù, penso che già si può salvare. Un po' caldo io sa plattamona, un po' caldo ma faccia più bene, mi capito, magari col... Cioè, stando lì, sta un po' nel comune di Sassari sempre, alla rotonda. Ma gli ha buttato un paio di panini, aveva mangiato, ho cacato la cosa. Devo andare. Beh, ragazzi, mi stacco un attimino, già ci sentiamo, ok, già sono qua in radio intanto. Ok, no problem. Buon Quirrick. Tanto, chi ci mi dice pure quando andava a pisciare su Gani, si deve andare a pisciare, mi avverte, io gli faccio le domande e mi fa capire se deve andare a pisciare oppure no. Se mi avverte pure quando bolle la pentola, sicuramente mia moglie è smemorata, no? Si intende leva budenti subito della baggia. Allora esci io ed era leva budenti, te li immagineggi. Allora è intelligente il ciugane. Eia, se te lo sto dicendo, quando lui abbaia, no, dico, ma cosa devi andare a fare la nanna, tu si caglia muddu. Dopo dico, ma non è che devi andare a fare la pipino, attacca a bagliare, cazzo, a muoversi e a saltare sulle gambe anteriori. E poi dico, vuoi andare a pisciare, allora io lo posso fare, piscia e si nazza. Giurami. Penso che io davo un cane super intelligente. Mi sto dicendo, non sembra vero. A mia moglie, io so già quando è mia moglie, perché lui abbaia come un cucciolo quando è mia moglie. E allora io so Gughedda e Finelli, ma la sente da prima di entrare nel vicolo mio, dall'odore. Dimmi tu. Lui subito abbaia come un cucciolo, io allora so che è mia moglie. Invece a questo del piano di sopra, siccome non lo può vedere, allora si mette a ringhiare. Abbaia se si va di comprendere Ugani. Ebbè. Abbassa un po' che si è trovato il gatto. Comprensibile. Adesso sì. Santiago 910. E un po' con rimbombante, bo, compreso. Rimbombante? Guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5. E sempre, rimbombante rimane come il radio. Capito?